Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:23 minuti primi, buonasera a tutti ancora nuovamente da Gilles e Maurizio. Questa volta si cambia, Maurizio. Si cambia, assolutamente si cambia. Chiaramente abbiamo detto Rockway Live, è live, più live di così. Buonasera Selvaggi Band. Buonasera a tutti. Avete fatto buon viaggio da Brescia, quel di Brescia. Un po' incasinato. Fa bene alla salute anche... So che è difficile, però quando uno arriva qua suona, dimentica anche le confusioni o altre cose. Siamo qua e veniamo a suonare. Vedo che siete in perfetto ordine, avete un sacco di strumenti interessanti. Il trombone, fammi sentire un momento il trombone, dai Doriano. Doriano col trombone. Avete sentito, eh? È una specie di autobus. Specie di autobus. Benissimo, buonasera a tutti, cari ascoltatori. Qui abbiamo Selvaggi Band. Adesso ci parlano. Intanto si presentano uno alla volta. Vai, vi presentate. Dai. Partiamo da? Da sinistra. Partiamo da io. Devi metterti vicino al microfono. Partiamo da tu. Ecco, ciao vai. A tutti, padovani e non padovani. Ciao a tutti i veneti. Noi veniamo da. Un po' più vicino al microfono. Noi veniamo. Grazie della precisazione. Noi veniamo dalla provincia di Brescia. Abbiamo affrontato, come dicevamo prima, 2 ore e mezza di traffico. Di coda, o quasi. Di traffico. Beh, domani intenso, è festa, diciamo. Dai. Traffico intenso. È vero. Vanno al mare tutti. Sono tutti andati. No, al lago erano andati. Infatti, penso che il lago di Garda sia abbastanza incasinato in questi giorni. Esattamente. In ogni caso, siete venuti qua a suonare. Esatto. Sì, sì. Noi veniamo, ci proponiamo così. Ci siamo proposti qualche anno fa. Abbiamo iniziato a scrivere musica nostra, ma soprattutto in lingua madre, in lingua dialettale bresciana. Come si chiama la lingua dialettale bresciana? Dialetto di Brescia. Ecco, com'è? Dialetto di Brescia. Perfetto, dialetto abbiamo Brescia. Capito, è proprio quello. Però voglio precisare una cosa. Dimmi. Dialetto di Brescia. Ah, come una aspirata. Perché Roberto prima di venire qua... Alla Toscana proprio. Lui è importante. Ancora più forte della Toscana. No, mi ha raccomandato prima di venire qua di non aspirare la S. Invece io ho detto a Roberto... Roberto chitarrista non si è presentato, lo presento io. Roberto ti sei presentato al gruppo. Devi presentarti. Dimmi. Cioè, voglio precisare che la S aspirata dalle nostre parti è una caratteristica. È una caratteristica. Come in Toscana c'è la H e voi esatto, avete la S. E quindi si ha il pregiudizio di essere un attimino come si dice, come si può dire, di fare la figura di quelli che vivono in mezzo alle valli, in mezzo a, perché alle abbiamo montagne. Il dialetto abbastanza marcato. Però questa è un'identità che non bisogna abbandonare, ragazzi. Non dobbiamo perdere. Beh, no, infatti siamo venuti fino a Padova a far sentire la vostra aspirata. La S aspirata. Quindi Roberto alla chitarra, poi te? Io mi chiamo Giovanni Pintossi. Stasera suoni il? Suono il mandolino. Mandolino elettrico? No, acustico. Acustico. È acustico. Originale. Che bello. Un originale, dimmi? Kentucky. Ah, Kentucky, quindi americano al 100%. Sì. Abbiamo poi il trombone. Io sono la chitarra acustica. Sono la chitarra acustica. David, come ti chiami? Doriano al trombone. Vicino al microfono, Doriano. Doriano al trombone. E poi abbiamo il nostro... Stefano, che suoni cosa, Stefano? Il baguette bergamasco, che è una cornamusa bergamasca. Come si chiama? Baguette bergamasco. Non c'entra niente con quella francese, il baguette. No, quella francese si chiama musette. Musette. La tipologia delle cornamuse è la stessa cosa. Solo che nelle varie zone si identifica con varie baguette bergamasca. Baguette bergamasco. Potremmo aprire... Io parlavo quella. No. Comunque sarà una cosa particolare. Perché certo, non è che abbiamo tutte le sere qualcuno che suona la cornamusa. Esatto. È una cosa molto particolare. È la prima volta che sento... Perché quella che si conosce di più è quella scozzese. Esattamente. Però invece in tutta Europa ce ne sono vari tipi di cornamuse e noi c'è la piva emiliana anche, noi abbiamo la zona Brescia-Bergamo, abbiamo il baguette bergamasco. Bello. Che è da 30 anni che è tornato agli albori, esatto. Bene, grazie alla ricerca di un musicologo, Walter Biella, ha scoperto, lui era un appassionato di montagna, andava nel chiesine, vedeva affrescato suonatore di baguette, certo, ma non lo suonava più nessuno, e allora ha iniziato da lì la ricerca, come mai se non gli affreschi vuol dire che qualcuno lo suonava, e si è sviluppato il tutto, adesso ce ne sono. Ma c'è parecchi. Chi costruisce questo strumento? Lui costruisce, bisogna andare a Bergamo a comprarlo, nei negozi di strumenti musicali non si trova. Bello, una cosa molto interessante, dimmi. Originale. No, dico che originale appunto questo del baguette, come il fatto di avere un mandolino e un trombone, ed è stata una scelta. C'è anche un proprio con un clarinetto là. Un clarinetto, clarinetto. E poi vabbè, Stefano suona altri strumenti tipo ocarina e flauti. L'hai portata l'ocarina stasera? Sì. Bene, bene. Molto bene. E molto questo, bene. questa okay, scelta carino di strumenti è, non a caso, fa parte del nostro essere Selvaggi Band, perché è un'identità che abbiamo voluto creare con questi strumenti originali, soprattutto folcloristici, uh-huh, o folk, diciamo, perché appunto sono più inerenti alla musica, certo, al progetto che noi abbiamo iniziato. Avete iniziato nel 1992 grazie a un caro amico e anche un padre missionario in Africa. Sì, com'è il discorso? Sì, questo è praticamente... All'origine di tutto, è partito da là. È partito... 1992. Vabbè, io mi riferivo più al nome del gruppo Selvaggi Band, è nato per questo affiatamento che avevamo con questo... Missionario. Padre missionario che... Ma c'era la passione della musica, vi accomunava la passione della musica. Sì, poi la passione della musica, come tutti i ragazzi, siamo partiti... La maggior parte dei ragazzi partono dall'oratorio. Esattamente. Che è una bella fucina l'oratorio, quindi... di queste robe. Chi fa garage band dall'oratorio, voi avete fatto musica folk. Esatto. Anche quella è una garage band, è trasgressiva nell'ambito del folk. Sì, cioè, sì, sì. Si cerca delle strade diverse, chiaramente. Proprio di strade diverse, cosa dici? Sentiamo il primo pezzo del disco, così dopo ne parliamo ancora. Sentiamo il primo pezzo. Cosa, che pezzo avete scelto nella scaletta? Gil, che pezzo hanno scelto i ragazzi? Bus in sì, abbiamo fatto due versioni, una in Mi minore e una in Re minore. Una più elettrica. Facciamo la Re minore, che così poi... Io ce l'ho in Do. La no, prima. No, è quella, in re. In re minore, che così quindi, poi... Quindi il titolo porta in do, sì, ma no, in realtà in re. D minor è no, la lettera inglese. Ah, ho capito. Chiaro. Adesso stentiamo adesso. Fermata, aspetto l'ultima corriera, grido tutti state fermi, sono il primo e vado avanti, sono qui da quasi un'ora e non vorrai fregarmi il posto sul pulmino. Tu non ci crederai, ma è una guerra, lo sai, che per andare a scuola mi svegliavo alle 6. Ciappa al GB, l'abbonamento è fuori de ca. Al GB, l'abbonamento è fuori de ca. Mario Crappadura era l'autista più veloce, c'era Sergio Muso triste che saltava le fermate, c'era quello mezzo matto che scaldava la corriera di risate. Tu non ci crederai, sono un mito per noi, questa non è una canzone scritta solo per voi. Prima, seconda, salita, la marcia che gratta è partita, ormai. Viaggio di sera, il posto è stampe, una signora, se non trova il posto che dorme. Ricorda quell'autista leggendario, Caldaro e Cerandi, era un Enzo che gridava, maledetto che sto matto e me fa muore. tu non ci crederai, siamo cresciuti con lui. E adesso che non c'è lo rivormo con noi. L'ombrello, i guanti, lo zaino, quante robe cose fentega. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eh sì, qualche volta anche i CD hanno bisogno di correre. Sono cose della vita. Diciamo, diciamo la verità che in radio gli abbiamo dato un CD masterizzato. No. Se no, scherzavo. Sono cose che capitano. Beh, fa tutto parte della diretta anche questo. Sì. Dicevi giustamente, Giovanni, mi pare, del discorso americano che c'è in questo pezzo. Questa America che bene o male viene fuori. Come mai questa America che viene fuori? America bella, tu hai parlato del Kentucky, quindi più America di quello. Ma perché le origini, le influenze sono sicuramente del cantautorato americano, da Bob Dylan a Neil Young. Woody Guthrie dipendente, qualcosina. Sì. Non proprio, però... Dopo Neil Young e Bob Dylan, ma prima si parlava... Prima si parlava da Woody Guthrie e Pete Seeger. Esattamente, Pete Seeger e Woody Guthrie. Però vabbè, non siamo poi così. No, assolutamente molto... no. Ma c'è un piccolo riferimento. C'è anche probabilmente nelle prossime canzoni che faremo dal live. Dal vivo. C'è almeno questa. Questa influenza e la voglia di dire qualcosa, ecco, che va leggermente contro qualcosina, perché non bisogna essere... Woody Guthrie sappiamo che era un anarchico, sì, musicalmente, uno che diceva le cose, esatto. Chitarra e voce le diceva proprio, esatto. Senza nessuna copertura. Pete Seeger, anche lui, però chiaramente il discorso è leggermente diverso. Ma tu hai citato l'americano Kentucky, quello è un mandolino che viene dal Kentucky, esatto, quindi esatto. Già si sente l'odore degli Stati Uniti, viene fuori. Benissimo, adesso sono le 22:35. Io sono contento e sono proprio desideroso di sentire il vostro primo pezzo. Dai. Per scaldare la Selvaggi Band, deve selvaggiamente scaldare la platea, chiaramente. Che cosa? Con cosa selvaggiamente scaldiamo la platea? Se parliamo di America, è giusto fare un country, accennare qualcosa. Il titolo del pezzo, Giovanni? Il titolo del pezzo è Accensione a strappo. Diciamo qualcosa. Sì, diciamo qualcosa titolo, sull'accensione della strada. Roberto, esatto. Vuoi dire qualcosa? È significato. O se no, anche Doriano, Stefano, qualsiasi può parlare. Accensione a strappo. Hanno passato la palla a me. Abbiamo scritto questo pezzo perché, soprattutto i ragazzi giovani, così, sono un attimino troppo legati a questa vita virtuale. Che si sta perdendo un attimino il contatto umano. Noi abbiamo voluto anche ironizzare che in dialetto bresciano ci sono certi termini che non sono traducibili. No, sono traducibili, adesso sì. Vi facciamo un esempio. Due, esatto. Ma no, fanne due. Un esempio pratico. Dimmi, dai. Esatto, no. Che ad esempio ci sono l'unità di misura del computer, la RAM. In dialetto bresciano i RAM sono i rami delle piante. Ah, ecco. Oppure sempre l'unità di misura, il byte. Megabyte. Esatto. E invece il bresciano che cosa vuol dire? Il byte è il capanno dove a baita? La baita, ecco, la baita. Dove vanno i cacciatori a caccia. Byte, vedi che ha sempre un'origine tutto quanto, esatto. È collegato. Ok, sentiamo il pezzo. E poi gli abbiamo dato il titolo proprio Accensione a strappo proprio per questa, anche perché... Non... Dimmi. Va bene, okay. Anche perché... Non si dice... No, perché altrimenti bisogna schiacciare il pulsantino. Esatto. No, il pulsantino lo posso schiacciare in qualsiasi momento. Lasciamo stare. Dimmi, Roberto. Che c'era. Che gli abbiamo dato questo titolo proprio perché anche quelli non più molto giovani si avvicinano, si sono avvicinati a questo mondo del virtuale. Mondo virtuale. anche non conoscendo proprio bene il computer, addirittura pensando che il computer si accenda come una motosega, cioè ho capito, a strappo. Accensione a strappo. E questa è accensione a strappo. Ok. Mettiamo le cuffie. Organizziamoci. Vi do uno stacchetto, ragazzi, o partite? Ma partiamo. Partiamo. Via. Ma, two, three. I dischi che sta l'era del netto, tire la corda e tacche il motore, motore ricerca per data e per non curiose Facebook. Tu e la Luisa, richiesta amicizia alla punta col mouse, la cata in paese e la cognac, però lo trahera a misura de chat, che bisogna riorganizzare, e viva il social network. Urra per la Luisa! Ho 140 amici, ma è un perde per me. Fantastico mondo, ma attenti però, che troppo giro tondo il te fa gira al co. Bisogna ciappala con filosofia, bisogna cattala la retta via. Per amme de baiti me giran del co, che i de naulta era faccio de fo. Il facchino de riac, ma che bisogna de riorganizza. E viva il social network, che il home è a te più bello. Ho 140 amici, ma è un perde per me. Dai, tacchettate, ma tutta sta tecnologia, la menda mia de calur, la porta via la fantasia, bisogna da gappe culù. Canta la teccia squarciagula, copalo se lenta che vula. E dai, tacchettate. Ho 140 amici, ma è un perde per me. Dai, tacchettate. Tutta sta tecnologia, la menda mia de calur, la porta via la fantasia, bisogna da gappe culur, canta la teccia squarciagula, copalo se lenta che vula. E la tutta sta tecnologia, la menda mia de calur, la porta via la fantasia, bisogna dare la peculiar, canta la teccia squarciagula, tu palo se lenta che vula. E hey, la mia che lo se harome. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, pezzo da compagnia, possiamo dire questo, Giovanni? Sì, assolutamente. Sì, pezzo folk. Pezzo folk, proprio da. Proprio da folk. Esattamente, proprio. Da suonare, da ironizzare, da cantare, da ballare, esatto, assieme. Sì, anche ballare. Se non è una ballad, non funziona. Se non è una ballad, non funziona. Una cosa che ho letto sulla vostra biografia, avete suonato, avete scritto l'inno per il Brescia Calcio, ha perso, mi dispiace, l'altro giorno col Verona. Sì, sì, esatto. Come Fotoball si chiamava e si chiama ancora probabilmente. Lo fate sentire ancora questo pezzo? Ma ascolta, questo pezzo si è perso nelle nebbie. Si è perso nelle nebbie. L'abbiamo perduto. L'abbiamo voluto perderlo, forse anche volontariamente. Volontariamente voluto perderlo. non direi, però diciamo che No, ho detto una cosa brutta. L'abbiamo un attimino messo da parte. Avete iniziato un altro percorso. Esatto. Perché all'inizio, oltre all'inno del Brescia, avete suonato con Charlie Cinelli, per esempio. Sì, con Charlie. Che è venuto anche qua anni fa. Che è stato divertentissimo e bravissimo, come sempre. È un finimondo nel senso positivo del termine, un trascinatore. È un grande trascinatore, un animale dal palcoscenico. Veramente. Quindi sì, abbiamo avuto un'esperienza, direi, molto positiva con lui. Ci ha ispirato molto sul discorso canzone dialettale. Giovanni, l'importanza della canzone dialettale, perché i pezzi sono sì dialettali, ma ci sono anche dei pezzi non prettamente dialettali. Potremmo dire anche che non abbiamo detto una cosa importante, che noi abbiamo fatto un primo CD nel 2002 si chiamava En dialet, perché abbiamo dedicato proprio interamente l'album, 11 canzoni interamente dedicate al dialetto vostro. Ed è stato un percorso che abbiamo preso ispirandoci a Charlie Cinelli e non perché comunque l'input è venuto da lui, l'abbiamo conosciuto e il fatto di conoscerlo ci ha permesso di conoscere altre persone di ampliare il giro praticamente, che lavorano sul dialetto. Ma è difficile lavorare, Giovanni, sul dialetto. Avenche Van der Stroos vi ha allargato grazie alla partecipazione a Sanremo. Van der Stroos è un artista da tempo che fa questo percorso, grazie a Sanremo la visibilità è uscito enorme. Quindi la gente ha capito che non c'è solamente un linguaggio, ci sono altri linguaggi della musica popolare. Possiamo dire popolare italiana. Sì, purtroppo il bresciano è sempre stato penalizzato. Adesso non ho la competenza per dire il perché è stato penalizzato, ma comunque è una cosa che deriva ancora dai nostri poeti. Per dire, noi abbiamo avuto Angelo Canossi, che è il primo poeta più importante della provincia di Brescia. Che probabilmente per motivi più grossi non è riuscito a portare quel valore aggiunto al dialetto bresciano. Non è stato un ricercatore a livello di quello che ha citato prima Stefano. Ha sviluppato, però non è andato oltre. Ha fatto moltissimo, molte opere, però... probabilmente non così, non ha avuto quel successo che si meritava, non è andato oltre, successo che adesso però anche Charlie Cinelli sta cercando di riprenderlo. Di riprendere. Charlie Cinelli ha fatto uno spettacolo con canzoni dedicate al Canossi, cioè su poesie e brani del Canossi lui ha musicato. Ha fatto uno spettacolo proprio per questo. Ho capito. Io volevo chiedere una cosa ai ragazzi, a proposito si parlava prima di Desfross e abbiamo avuto ospite anche Daniele Ronda in telefonica, che abbiamo sentito prima il pezzo di Daniele Ronda, abbiamo avuto i Maghi di Carroz. Io mi riferisco un po' al folk. L'impressione è che soprattutto tra i giovani ci sia un po' un ritorno al folk, o è solo così un'impressione? C'è un ritorno sul folk, c'è molto un fermento che non è indifferente. Penso che ne dia atto anche il gruppo, cosa sono, i Luminers? Esattamente, sono proprio il folk. Visto che siamo nel Veneto, io conosco, cioè so bene i Calicanto, Roberto Tombesi and Company, loro fanno un bel folk, un mucchio di date, hanno di concerti, e è un bel folk. Secondo voi a cosa è dovuto questo ritorno del folk? È una casualità o è una base, o è proprio perché la gente ha voglia di ascoltare un qualcosa di allegro, visto anche i periodi un po' pesanti? Riguardo a questo, Il folk porta divertimento, inevitabile. Un aneddoto. Abbiamo conosciuto anche i Luf. Che Luf è un gruppo molto interessante. Sono nostri carissimi amici, Dario Canossi, lo conosciamo molto bene e anche con lui abbiamo avuto esperienza. Sono gucciniani i Luf, assolutamente sì. Gucciniani. Ma così, parlando del più del meno di musica, con Dario, che mi è rimasto questa sua frase e io lo ringrazio per questa frase, perché veramente lui ha detto: bisogna tornare alle origini. Cioè, cosa vuol dire bisogna tornare alle origini? Ai suoni semplici, al battere del piede del bluesman. Cioè, vabbè, che a noi ci manca, non possiamo ritenerci suonatori di blues o di country, perché ci manca la batteria, Giovanni. No, vabbè, il country bisogna sentirlo probabilmente fin da piccoli, suonarlo con chi lo suona. E con questo non voglio che sminuire sì, no, però quello che facciamo, però ho capito il senso, sì, certo. Se non ce l'hai dentro, come se si non dice, ce l'hai dentro puoi studiarlo, puoi ristudiarlo, ma non viene come deve essere fatto. Però la frase di Dario è stata una sferzata, una pietra miliare per me, una sferzata. No, fatto... non a caso diceva Roberto, i Luminers, se noi guardiamo questo, certo, gruppo, certo. È di una semplicità estrema, perché certo. La struttura delle canzoni richiama il cantautorato americano io oserei dire senza tanti sfronzoli, quello proprio senza tante architetture costruite, esatto. Quello che deve essere praticamente, esatto. Questo è il motivo, e quello che vogliamo cercare anche di riproporre noi con la Ma c'è anche un grande ritorno al folk, non soltanto dei gruppi di questo genere, ma anche i gruppi americani, i gruppi inglesi, che ritornano alle origini riprendendo gli strumenti acustici, sì, è quello importante. Sì. L'elettricità, l'elettrificare uno strumento era importante negli anni 70, 80, 90, 2000, però adesso c'è un ritorno all'acusticità. Sì, lo strumento acustico, e quello è fondamentale, importante. Ci sono tanti gruppi che stanno solcando le classifiche mondiali e ritornando all'acustico. Muffled Song, tanto per citare un gruppo che ormai ha spopolato dappertutto, ma è l'acusticità. E questa è acusticità. In dialetto o non dialetto non importa, ma è sempre acusticità. Stasera abbiamo tutti gli strumenti acustici, il trombone più acustico di quello, chiaramente, nel senso positivo del termine. E poi abbiamo tutti gli strumenti popolari tradizionali. Esatto. Tradizionali, e il ritorno al tradizionale è una bella cosa, esatto. sì. E anche il suono tradizionale è una bella cosa, perché probabilmente la gente era stanca di mettere sulla spina, qualche volta si deve staccare la spina, e qualche volta staccando la spina c'è un'altra atmosfera, decisamente, anche se la spina serve per tante cose soprattutto per coprire certe manchevolezze. Quando uno suona l'elettrica può suonare quello che vuole, quando suona l'acustica un po' meno, Maurizio, la gente ascolta di più. Passiamo un po' alla musica, facciamo un altro pezzo. Che cosa volete fare, cari ragazzi, stasera? Va bene, facciamo live o ascoltiamo live. Facciamo live. Facciamo, visto che siamo qui, chitarra in mano, facciamo. Allora vi lancio un piccolo staghettino e poi iniziate a suonare. Ok. Le pome, pirle, pome, tocca lì ampè, stanotte una zanzara, la ma beccate il pè. Notizia in prima pagina, l'economia va giù, le me cambia discorso, il gas te fa debù. Giro me gonda pagina, lo spread che sale su, amo queste notizie, è proprio zanzarù. Viva l'Italia libera, l'Italia che laura! E insomma ste zanzare, lega il fan a marura. la radio la che manda la solita canhu, e per le ste facce anche in televisione. Madonna me che rabbia, che sgriso e che... Le braghe è de moda, e è piene de bus. E me che accetta mia la globalizzazione, no antiamo la eccia con le me fija su. Madonna me che rabbia, che sgriso e che vergogna, e me arda le tre S, come è che la rogna. E gli SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, era proprio una jam session. In finale sì. Con la jam session. È bello così. C'è una domanda che ti hanno fatto. Forse a te, Giovanni. Scrivi sì. Te i testi. Scrivete insieme. Facciamo insieme. Sì, una domanda che era sì. Questa del 5. Tu hai detto, ti hanno chiesto, hai faticoso a scrivere una canzone? Te sì. O qualcuno ha risposto. Scrivere una canzone non è semplice, c'è tutto un discorso di metica, ma nel 90% dei casi ci azzeccavamo al primo colpo. È sempre stato così? No, assolutamente. Soprattutto per il dialetto, perché il dialetto ha bisogno di essere conosciuto e di essere vissuto. Perché... Quando andate fuori Brescia, lontano da Brescia, che suonate le cose in dialetto, la gente come si comporta? Beh, qui è sempre un terno all'otto, perché il dialetto non sono dell'idea che sia un limite, questo lo posso dire, però sono d'accordo con te, non deve essere un limite, non deve essere un limite, perché altrimenti il napoletano canzone... deve essere un limite allora, ecco, o qualche allora. Altro dialetto deve essere esatto. Un limite, ma anche le canzoni in inglese che noi inglese, sentiamo non penso che tutti gli italiani capiscano assolutamente il no. Senso delle, assolutamente delle canzoni no. In inglese certo, però c'è anche un pregiudizio che può essere anche a volte politico, sì esattamente è sbagliato, però che ti stronca effettivamente proprio l'abbiamo vissuto sulla pelle, quindi lo possiamo dire, ed è un peccato perché il dialetto deve essere vissuto portato in giro, portato esattamente al di fuori dei confini, al di fuori dei confini. Però la musica non può, allora, non può portare a tralasciare il discorso del pregiudizio. La musica è accomuna a tutti quanti, esatto. Quindi anche la musica dialettale. E poi c'è da dire che comunque col dialetto, dicevo prima, bisogna conoscerlo, essere conoscitori del dialetto, e quindi azzeccare la parola giusta, il termine giusto, che ha al tempo stesso sonorità e metrica, è molto difficile. Io lo ripeto, adesso l'ho ripetuto un po' di volte, ma probabilmente siamo entrati in un giro che bisogna per forza scrivere in dialetto adesso. Ho capito. Dico, perché c'è una rassegna che tutti gli anni a Brescia raccoglie gli artisti dialettali della provincia e li raggruppa tutti su un CD. Ho capito, sì. Una raccolta. Una raccolta di musica e canzone dialettale che si intitola Goide Kentala. Dobbiamo raccontarla. Dimmi, Stefano. Ho fatto la traduzione, voglio raccontarla, dobbiamo raccontarla. Dobbiamo raccontarla, ho capito. Cioè, ogni anno vi riunite, tutti i gruppi che si ispirano al discorso dialettale, e suonate e incidete un disco, ogni anno incidete questo CD. Una volta all'anno. Ma ci sono dei pezzi nuovi di questo CD? Sono dei pezzi inediti, nuovi, tutti nuovi. Però questa continuità è... È importante, l'impressione che sia diventi poi troppo scontata. Ah, ho capito. E alla fine va a banalizzare. Non è più spontanea, secondo te? A volte perde la spontaneità. E poi vorrei dire un'altra cosa che sul dialetto. C'è l'artista che affronta la canzone impegnata e l'artista che affronta la canzone ironica. Però quando tu tratti la canzone ironica in dialetto, bisogna stare molto attenti che passi per quello che fa canzoni così canzonette. Cosa ne pensi, Gil, di questa? È una bella frase, che sì, sicuramente è una buona cioè è un'arma a doppio taglio, secondo me. La canzonetta, il dialetto non è la barzelletta, non è solo la barzelletta bergamasca, e bisogna stare attenti perché il dialetto l'hanno identificato, perché il maschio è stato identificato in una certa maniera, quindi le barzellette eccetera, quindi il dialetto ha una potenzialità, è un'espressività, è una lingua il dialetto, va fuori dal, il dialetto è una lingua, oltrepassa la canzonetta, certo. e la barzelletta. Ma tu prima parlavate, mi pare, di globalizzazione, quindi parlando di globalizzazione, non è un tema da ridere, è un tema importante. A proposito di computer, a proposito di internet, la globalizzazione ha portato anche questo, ma ha portato cose positive, ma ha portato anche cose negative, la mancanza di dialogo, è vero, esatto, Roberto? Esatto, e infatti noi nel nostro testo diciamo, e io che non accetto la globalizzazione, vado avanti alla vecchia, cioè alla vecchia maniera, con le mie fisse, con le mie... E un po' tutto, come diceva anche Giovanni, la canzone in dialetto soprattutto è stata lanciata da alcuni artisti, anche lì diciamo sul bresciano, Charlie Cinelli, che è stato il primo. E continua a fare questo discorso. Esatto, ma continua a fare questo discorso del dialetto, però... Diciamo che si è un attimino scostato dalla solita canzonetta. È un po' più sociale il discorso, un po' più impegnato, voglio dire. Probabilmente all'inizio si è accorto che il dialetto faceva ridere, cioè facendo il concerto poteva dire certe cose, determinate cose, che risultavano simpatiche. Ma con l'andare del tempo questa cosa, cioè non puoi continuare solo a dire canzonetta. Si è un po' stancato, chiaramente. E ha iniziato a fare canzoni anche di un certo livello, che secondo me probabilmente si sono accorti che col dialetto non si rideva così tanto, o perlomeno solo. Esattamente, non si rideva solo, si doveva anche capire e anche pensare e poter dire qualcosa, certo. Qualcosa anche di sensato, di... È giusto, interessante. Esatto. Ok, ascoltiamo, dici? Ancora della musica. Sì, dal disco. Dal disco, vi va bene? Sì. Che traccia avete scelto? Hanno scelto Rino il contadino, quindi questa volta una canzone in italiano. Sì, sì, c'è il... almeno quello ho visto il testo mi sembra tutto sì, italiano. Sì, sì, sì. Sì, c'è solo un po' il ritornello. Cosa parla Roberto? Rino il contadino. Anche questo, Rino il contadino, parla di come sta andando un attimino il mondo, un po' un grido di protesta di come sta andando il mondo, dell'inquinamento, dell'aria, dell'acqua che non è più acqua, la sorgente che voglia di bere non c'è più, non è più possibile bere la sorgente, esatto, di questa cosa. E nel ritornello dice, cos'è che dice Giovanni, che non mi ricordo bene le parole giuste, ma sì, se rifacciamo alla politica, non bisogna parlare di politica, esattamente, e noi ce ne freghiamo, stiamo bellamente, quindi meglio esatto, meglio pascolare le vacche, meglio pascolare le mucche senza cravatta e con gli stivali, così proprio per ritornare, in qualsiasi caso, più di politica si parla di cose di comuni, esatto, esattamente, e anche qui si ritorna alle origini. Sentiamo. Però, ascoltiamo Rino contadino. Rino contadino. La pelle, non riesco a dormire. Sogno di macchine grandi, motori pesanti, dove andremo a finire? Acqua che non è più acqua, ma dov'è la sorgente? Non riesco più a bere. Neve in estate, caldo d'inverno, dove sei? Non riesco a vedere. L'uomo lo vedo distante, fa troppe domande e non vuole capire. L'uomo non vuole cambiare, ma cambia le carte per non sentire. Parlo mia de politica, e de multinazionale. Questo mondo particolare, mi servono le ruote per camminare. I raggi di sole adesso fanno male, aria nera nera da respirare. Oltre a quel fiume c'è un sentiero fiorito, può portarci lontano, lo sai. Oltre all'incrocio c'è la fabbrica aperta, fiori di plastica e guai. Domande confuse, le scuse importanti di uomini artificiali. Meglio pascolare le vacche senza cravatte con gli stiai. Parlo mia de politica. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Blu Radio Veneto, carissimi amici, in compagnia di Maurizio e Gilles, ma non solo. Abbiamo anche i Selvaggi Band con noi questa sera, che sono Roberto, Giovanni, Doriano e Stefano. Ringraziamo tra l'altro anche Maurizio Alberto Prisco, assolutamente, nostro direttore artistico, nonché ha voluto con molta urgenza, con molta forza, ha fatto bene a invitare i Selvaggi Band stasera. Io volevo chiedere ai ragazzi, è il gruppo completo o mancano un po' di persone? Perché vedo parecchia gente che ha suonato poi alla fine per realizzare questo CD. Sì, allora diciamo che del gruppo manca un altro chitarrista che ci aiuta durante i live. Logicamente il batterista e il bassista, che li nominiamo. Li nominiamo, esatto. C'è Cristian Rocco alla chitarra, al mandolino, al banjo. C'è Enrico Catena alla batteria. E poi c'è Marco, nostro amico, che è al basso. Questi sono i musicisti. Questi, sì. Poi le varie collaborazioni, le ghost, le apparizioni, esatto. le comparsate positive. Vabbè, c'è Enrico Mantovani che ci ha dato una mano sull'arrangiamento di alcuni pezzi. Anche la steel. Abbiamo sentito la steel guitar adesso. La pedal steel che si sentiva, infatti, era quella di Enrico Mantovani. Molto americana. Molto americana. Esatto. Mi dicevi, Giovanni, che suonava con Bubola. Bubola è americano, sì. Al 100%. Sì, qualche volta. Bubola, sì. Esattamente. Dimmi. C'è anche un sax dentro. Certo, un sax. Deve essere eccezionale, quindi, come gruppo. Cristian Guerra. Poi dimmi, Roberto. Poi chi è che c'era? C'era anche Paolo Malacarne. Beh, ragazzi, diteli voi, perché Doriano, metti davanti al microfono, dai. Cioè, ha suonato il sax Cristian Guerra e Paolo Malacarne alla tromba. Poi ci ha dato una mano Valerio. Sarebbe meraviglioso. Esatto, Valerio Gafurini, che è quello che ha fatto le riprese del nostro disco e ci ha fatto anche i vari Hammond, tastiere varie. Tastiere praticamente. E ha curato l'arrangiamento e il missaggio del disco. Ma il disco è autoprodotto da voi? Sì, assolutamente. Beh, non si può fare altrimenti, come dice Roberto. Proviamo a immaginarli nel palco, Maurizio, tutti quanti assieme, tutti bello, questi strumenti, bello. Deve essere di un'allegria unica. C'è qualcosa su YouTube? Sì, abbiamo fatto dei video a livello amatoriale. E poi ce n'è uno anche di Anistok, che è un video abbastanza professionale, diciamo. Dove l'hai fatto? A Anistok, un concerto che abbiamo fatto a Anistok, una rassegna che fanno, una rassegna rock importante. È un bel video, veramente. È suonato là praticamente. Gilles, adesso tu che sei un professionista serio, lanci il giochino, dai, lanci, come Agostino lo lancia. Sì, lo lancia, abbiamo anche questo gioco che si fa ogni tanto qui a Blu Radio Veneto. Se doveste andare alla fin fine su un'isola, vivere su un'isola deserta, su un'isola, quali sono i vostri cantanti preferiti? Sì, i vostri gruppi, tre dischi che vi portereste in quest'isola? Roberto, vuoi iniziare te? Visto che hanno deciso che inizi te. Sempre lui. Il nostro salvatore. Esatto, il nostro salvagente. Ci ha fatto questa domanda un attimo fa. Vedo che tutti gli altri sono intenti a scrivere. Hai tutto in mente. Ma diciamo che io il primo LP, che quando avevo 14 anni, l'hai comprato? Con la paghetta di... Una volta si comprava, che bello, si comprava i vinili, adesso si compra qualcosa d'altro. Io mi ricordo 14 anni, il mio primo vinile è sceso dal nostro paese, che dista 25 km da Brescia. Ho preso il mitico concerto dei Simon & Garfunkel in Central Park. Quello doppio. Sono particolarmente legato a questi cantanti per le sonorità, per la gioia che esprimo, per la vivacità, proprio la voglia di vivere. Sembra, diciamo, io quando sento questo disco lo ascolterei infinitamente proprio. Beh, Art Garfunkel è una voce meravigliosa. Esatto. Mm-hmm. E poi Paul Simon, sappiamo chi è Paul Simon, ha scritto delle cose sublimi. Sì, The Sound of Silence ha scritto Paul Simon, tanto per cambiare. Poi è America. Esatto. Poi voi citate l'America, proprio America, uno dei pezzi più famosi. Quindi esatto. Simon Garfunkel al Central Park. Anche questo, The Boxer. Anche di questa. Beh, ne fate tante meravigliosi pezzi. Senti. Un altro... è un altro disco più, penso che come due o tre generazioni a questa parte siano legate ai nomadi. Ecco, quali nomadi? Qua dobbiamo fare un distinguo, molto distinguo secondo me. Io personalmente, che ho una certa età, 60 pere quasi, 60 anni, i nomadi sono morti quando è morto Augusto per me. Sì, non so voi cosa dite. Sì, anch'io... Morti, cioè non sono più per me musicalmente validi da perché è morto Augusto. C'era, sì, quando c'era Augusto sul palco era un'altra cosa. Era un'altra cosa. Poi aveva una voce incredibile. E poi era un pathos, un trascinamento. Esatto. Era veramente un leader. Un carisma. Esatto. E poi questa voglia che aveva lui di cantare era. Cioè, ti esprimeva. Cioè, tu solo a sentirlo. Cioè, capivi che lui questa cosa gli piaceva farlo, gli piaceva il contatto che aveva con la gente. E tu quando andavi a un suo concerto, ne ho visti parecchio con Augusto. Anzi, una volta sono salito sul palco e abbracciato Augusto ho cantato Dio è morto. Ah, e questa cosa qui è una cosa che ho. Te rimani sempre dentro. Che ho nel cuore. E quando me la ricordo ancora qualcuno che mi ha visto fare questa cosa, mi. Prima abbiamo citato i Luff. Quindi Dio è morto è un pezzo di Guccini, esatto. È ancora valido, del 67 Dio è morto, quindi sì. Sono passati tanti anni, eppure esatto. Se lo senti adesso, se lo interpreti adesso, ha un testo validissimo, parole attualissime, straordinario, benissimo, poi Roberto? Poi, c'è il boss. Ah, il boss, è il boss, sì. Visto che viene a Padova fra un mese. Infatti, cioè, abbiamo avete già biglietti? Tutti i biglietti. Siete tutti? Siamo tutti. Siamo tutti. Come mai il boss, Roberto? Cosa del boss? Il boss è l'America. L'America. Il boss è l'America. È l'America sogno, anche rurale, sì, quella, esatto, quella profonda. È questo sogno, un sogno che ti fa... Cioè, secondo me il boss ti fa vedere l'America, ascoltando la sua musica. Vivi un pezzo d'America. È vero, il boss è il boss. Quando si dice boss, ce n'è uno solo. Esatto. Cioè, non ci posso sbagliare. Esatto. Il boss. Mi devo alzare i piedi. Quando parli del boss, mi devo alzare i piedi. Esatto. Sì. E ci vediamo a Padova, sicuramente. Grande. Ci saranno tanta altra gente. L'ho visto l'anno scorso a Milano. È stata una cosa. Cosa è stata secondo te a Milano l'anno scorso? A Milano è stata. Cioè, San Siro, non so come ha fatto a rimanere in piedi. Veramente. È stata una cosa. 3 ore e 45 minuti ininterrottamente e a quasi 70 anni ininterrottamente mica niente cioè, è roba ma una band straordinaria sì. Supportato da grandissimi musicisti e lui è ma è grande lui è grande e lui. Lui è un po' come dicevo prima di Augusto lui a lui piace proprio la senti questa cosa che hanno che trasmettono che gli piace quello che fanno gli piace è un trascinatore esatto. È un grandissimo trascinatore esatto. È un grandissimo artista adesso caro... sono curioso di sentire i dischi dei miei colleghi adesso tocca a Giovanni che si è notato tutto si è notato tutto no perché ho paura di lasciarmi sfuggire qualcosa bene. Sono tanti di dischi e lo so ma questo è un gioco più che un gioco vero Gil è un modo per far sentire alla gente che cosa gira musicalmente nella mente dei nostri artisti è bello secondo me Vai Giovanni. Beh, allora cito anch'io Augusto perché non posso non citarlo. Sono rimasto. Non sarebbe, proprio... non sarebbe come regola, perché non come sarebbe regola. Come regola. No, la però regola volevo, dice che non si volevo essere partecipe. Esatto, quindi, Giovanni, questa è la regola. Diciamo che ti ho fregato. Lo so, esatto. No, io sono rimasto proprio. Ho il cuore per Augusto, veramente. Cioè, quando lo vedo fanno scorrere immagini alla televisione mi commuovo. Sai cosa aveva Augusto secondo me? È un po' come Papa Wojtyla. Bravo. È che ha parlato giusto, Roby. Almeno una volta. Secondo me, non so se siete d'accordo, Augusto aveva la possibilità e la capacità. E gli anni 60 si facevano le cover, cioè i pezzi tradotti in italiano, di pezzi inglesi. Augusto e i Nomadi, Augusto. I Nomadi, cioè Augusto con i Nomadi, aveva la capacità di tradurre i pezzi dei autori non conosciuti, o meglio conosciuti, ma non quelli ma non famosi. E li traduceva. Ricordo sempre Un figlio di fiori aveva un domani. Quello era un pezzo dei Kinks. Era un pezzo a domani, era un pezzo di Kinks. Non era famosissimo, però fatto da lui era un piccolo capolavoro. Sì, quello aveva Augusto. Sì. È un grande anche su quello, oltre ad essere un bravo pittore, perché tanti copertine dei dischi dei Nomadi li aveva. Disegnati lui sì, è opera sua vai Giovanni va bene allora Dai, te lo passiamo Augusto, lo abboniamo, siamo buoni, vigilia del 25 aprile, vigilia di festa, siamo buoni. Vabbè, allora io mi sono ispirato, posso dire, a chi ti sei ispirato? Giovanni, se non mi dici questo nome, cioè io adesso voglio vedere Giovanni, se la sincerità, i suoi nomi, se non si è segnato questo nome, Giovanni. Vabbè, vediamo, dai, sicuramente c'è, perché partiamo dagli americani, come da Neil Young. Neil Young, cosa? Con tutto. Il disco Harvest. Quello è bellissimo, quello è bellissimo. Per me un... è un capolavoro assoluto. E poi vabbè, Bob Dylan, quasi tutta la discografia. È questo che volevo sentire io. Tutta la discografia, o quasi. I classici. Non tutta, però un album che mi ha colpito veramente è Homer C. Dove c'è Man in the Low Black Coat, prodotto da Daniel Lanois, grandissimo produttore. Esatto. E lì la sua voce mi ha proprio... Quante volte l'hai visto, Dylan? L'hai visto qualche volta? No, l'ho visto un paio di volte. Un paio di volte l'hai visto? L'ho visto a Milano e poi mi ricordo più. L'hai visto? L'ho visto un paio di volte. Anche quello ha sempre avuto una band straordinaria, un tipo particolare. Non dice mai le scalette ai musicisti, cambia le scalette. E Dylan, quando uno si parla... E Dylan, basta, non ci sono altre cose da dire. Sì, bisogna entrare un po' nella sua filosofia per riuscire, per essere un fan di Bob Dylan. Io, chiaramente, io ho una certa età, voi siete più giovani di me, ma Dylan è imprescindibile. I miei capostiti sono Dylan, i Rolling Stones, i Beatles, i Led Zeppelin, sono i capostiti di tutto. Poi Elvis è il primo, perché da Elvis sono venuti tutti gli altri. Quando si parla di Dylan, si parla di un grandissimo. E vabbè, poi altri, Mark Knopfler con i Dire Straits, e poi anche non con i Dire Straits, perché a me piace anche molto da solo, anche da solista. I Dire Straits sono sempre piaciuti, insomma. Sì. Ma non so se sia vero, ho letto su da poco che dovrebbe fare una tournée in Italia, non so se ci sia lui. I Dire Straits dovrebbero suonare adesso in Italia, non so con lui o senza di lui. Non lo so. È un po' come i Nomadi Senza Gusto, penso. Lo so. Cioè i Dire Straits senza Mark Knopfler. Manca l'essenza. Esatto, manca l'essenza. È un po' monco. Queste sono le tue scelte. Sì, poi di italiani sicuramente De Gregori con l'album La e quindi Storia. Si parla sempre di America, perché De Gregori è molto è il dinaniano italiano, sì, chiaramente, esatto. E poi De André con l'album Indiani sempre hai citato Bubola un'altra volta, visto che l'ha scritto con Bubola. Sì, poi c'è Bubola, comunque mi ha influenzato moltissimo Bubola, non posso dire di no, perché mi è piaciuto molto Doppio lungo addio, Amore e guerra, ha fatto tanti dischi interessanti. Bubola è molto americano, quello sì, sì, è molto sì, americano, sì. Caro Doriano, tocca a te. Vicino al microfono, col trombone, poi adesso puoi usare. Vi butto tutto fuori, che io vengo dalla musica classica, quindi. Vabbè, non importa. Salverei Bach, Mozart. Che Bach e Mozart sono i due rocchettari della storia della musica classica. Bach ha inventato, si può dire, ha inventato l'armonia, si può dire che ha inventato anche il jazz, ha inventato gli accordi, tutti. Certo. E salverei quello. Dopo, vabbè, tutto quello che hanno detto i miei colleghi sono anche miei, perché Augusto e Bob Dylan sono preferiti anche da me. Però la musica classica soprattutto. Musica classica e jazz. Louis Armstrong, quelli vecchi, le origini del jazz. L'hai citato quando hai fatto la jam. Prendo un po' spunto da loro. Quelli sono i miei preferiti. Quelli sui tuoi punti di riferimento. Lo strumento che suono, allora mi sposto sempre sul jazz. Quando vado ad ascoltare, se sono sulla macchina, mi fermo sempre lì, o sulla classica o sul jazz. Ah, ho capito. Benissimo, tocca a te. Tocca a me. Sì. Farò ridere un po'. Io porterei Andy Aletta. Guarda lui, no, sto scherzando, se ci dice. Perché no? Perché no? Si può il fare. Prossimo che uscirà, quindi. No. Adesso dopo parleremo del prossimo album. No, e io un po' diversamente da loro non sono stato molto influenzato dalla musica inglese americana. Perché anch'io ho iniziato con la musica classica e vai. E da giovane, no, all'inizio ascoltavo molto quando ero piccolino, anche se sembra strano. E mi piaceva Beethoven tantissimo, sotto la direzione di Von Karajan, la nona l'ascoltavo quasi tutti i giorni, perché proprio mi piaceva tantissimo. Però. La nona sinfonia, sì. E dopo, arrivato a una certa età, 14-15 anni, ho iniziato a essere patito di Edoardo Bennato. Ah, no, vedi. Ma il primo Bennato è quando c'era Lucio Barda, Yara De Bandini, Tony Esposito, James Enese, tutta quella gente lì. Non quello... Tutto la crema di Napoli. La crema di Napoli, esatto. Lì proprio ero patito per Bennato, che era una cosa veramente... Un giorno credi, per esempio. Un giorno credi, bellissimo. Esatto, una bellissima canzone. Penso meraviglioso. Fino a Burattino senza figli, dopo basta, dopo... Poi l'hai dimenticato. Dopo iniziato, esatto, poi ho iniziato a calare. No, sono canzonette ancora, però dopo piano piano è regredito, e quindi e dopo adesso così faccio un mix di musica. Adesso mi piace molto musica folk, e quindi c'è un gruppo della Val d'Aosta che si chiamano Abnova, che sono dei musicisti eccezionali secondo me, ma veramente bravi, e non è musica cantata ma è suonata. Ecco, porterei il disco che si chiama Abnormal, che l'hanno fatto 2 anni fa mi sembra, così avrei classica Bennato, che è stato il mio idolo, diciamo, da giovane, ed è la musica folk. Benissimo. Per fare un insieme di... Questi sono i dischi di riferimenti, i riferimenti musicali di Stefano. Benissimo, adesso riferimenti musicali sono 23 e 24. Suoniamo ancora, chiaramente. Dobbiamo suonare ancora che cosa, ragazzi? Facciamo una canzone dal titolo Nardo. Cosa parla Giovanni di è Nardo? È una canzone dedicata a, a una leggenda. Strettamente Valtrumplina, proprio dalla Valtrumbia. In cui narra di Nardo, che sarebbe Leonardo da Vinci, che è stato in Valtrumbia a suo tempo per carpire le origini del ferro, i trucchi della lavorazione del ferro, no? Noi veniamo dalla Valtrumbia, diciamo che la Valtrumbia è la valle del ferro, famosa per proprio per il ferro, per le miniere di ferro. Questo Leonardo da Vinci, dalle epoche antiche, abitando a Milano, ho sentito parlare di sto ferro. È venuto qui, venuto in Valtrompia, voleva vedere come, sinceramente, come facevano lavorarlo. Perché gli avevano parlato l'acqua, il fuoco, esatto, e toglievano il ferro. E lui voleva vedere questa cosa. I Valtromplini, un attimo gelosi della sua cultura, gli hanno detto: Nardo. Cioè, ironicamente chiamato Nardo, noi l'abbiamo detto: tu vieni, noi ti facciamo vedere qualcosina, però non tutto. Lui un giorno passeggiando poi sulle sponde c'è il fiume Mella lì, ha incontrato una ragazza che era poi la figlia del fabbro. Questa ragazza si è un po' innamorato, gli ha voluto fare il ritratto che... diventata la che la Gioconda. Esatto, i francesi ci hanno rubato. Ok. E questo è Nardo. Nardo. Una volta e volta girant al Leonardo tu ervei al po' de giù come al Monti Ghianihu. Lira poi un inventu a Mila un gran tunu e conti moro e galeas quasi quasi mehignu e li rampo un cadenas capitel mia rial mela ardampo el hara mia era el gatro attena petela amo più bella de una stella. El venia a fare il ritratto, il più bel mai più dirà. Per Nardo balo hel, el herca amo e tahel. Adatti che gaine. En Valtrumbia i falfer. Più gaiarte, più leser. El venia capì. A che mood i combinais l'hai dal feu a perno le chira e fure come mia e per te tature e finì a mitigal nas caro Nardo e te piace Luciana è contenta. Allora che gal fat, ma ecco è del ritratto della fiola del gran fer, più delicata del penher. Nardo il turna a Milan, ma del ferro ha che fa, è il cuor contente o disfat del più bel ritra mai fa. O non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. El o non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. El o non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. El o non le la gioconda, fiori. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. E qui giochiamo sempre, spesso volentieri. Adesso mi rifate il ritornello di questo pezzo che a me è piaciuto moltissimo, a me e a Gigli. Adesso me lo rifate il ritornello a proposito della Gioconda, la Gioconda, la parte finale. O non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. El o non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. El o non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. El o non le la gioconda, fiori del mela e la sponda. È inevitabile, Maurizio, pensare, tanta gente di fronte al palco che ascolta questa musica inevitabilmente non sta ferma, certo. È di un'allegria unica. Hai visto proprio che parliamo del palco, parliamo anche un attimo dei vostri live, ragazzi. Come voi state girando anche un po' l'Italia, non so, anche a livello europeo? È un po'... No. Siamo già oltre? Siamo già oltre, sì. No, in America! No. Siamo oltre, cioè, vabbè che l'ambizione sarebbe quella di fare sempre di più, ma purtroppo per ovvi motivi non riusciamo, non si può, perché lavorando, cioè, tutti noi abbiamo un lavoro che è una solita problematica. E il fatto di aver realizzato già due dischi con un terzo in arrivo per noi è già un bel traguardo. Tutti autoprodotti, dobbiamo sottolinearlo. Tutti autoprodotti. Sì, sì. Quardeluna è autoprodotto, il precedente era autoprodotto, il prossimo sarà autoprodotto. Il prossimo, esatto, sarà autoprodotto. Il tempo da dedicare, le forze da dedicare a un lavoro autoprodotto è veramente... Sono tante. Sono tante e poi non si ferma tutto lì. Eh sì. Perché una volta fatto il disco, cosa facciamo? Bisogna promuoverlo. Certo. Però quindi girare, trovare le date, casca il palco. O l'asino. Casca l'asino. Perché adesso le cose non funzionano più come una volta. È sempre più difficile. È sempre più difficile molto, proporsi. Molto e difficile. Noi andiamo bene per le sagre, le feste di paese, siamo una band da concerto, proprio da live sul palco, e quindi con un certo livello anche economico. Certo, e vi muovete, non siete mica in pochi quando vi non muovete. Siamo in pochi. Esatto. Quello è che ci penalizza un po' e poi solo a Brescia, emergere solo a Brescia è diventato un problema perché Brescia è piena di artisti, tanti artisti sono a Brescia, cosiddetti indie, molti indie, musica, sì. Musica indie che vogliamo capire che la vuol dire, sì ma è una cosa troppo questo è Giovanni che sta parlando ma tu hai detto una cosa giusta, troppo posso concedermi, sì, troppo fighetta, troppo fighetta. Tu hai detto una cosa giusta, cioè, ci sono tanti tanti sono venuti qua artisti indie bresciani, ci sono parecchi. Brescia è una città molto viva musicalmente, però sì. Però sono troppi indie. Spazio è sempre più ridotto. In mano troppo agli indie. In mano troppo agli indie, se si può dire. Quindi, Giovanni, live non ce ne sono. No, qui no, in ci sono. Ci sono, ci sono. Allora, diciamo, ci qua... sono. Allora, vabbè, il prossimo è a maggio in città a Brescia. Per la data te la ricordi? Te la ricordi? Il 18 maggio. Adesso Roberto sta cercando. Quindi 18 maggio. Poi il 19 a Brescia. Sempre in piazza Brescia collaboriamo con un'iniziativa del Caffè Letterario. È un gemellaggio che fanno con il Caffè Letterario della Serbia. Ci saremo noi, Ducoli. Alessandro Ducoli che ha collaborato in Quarto de Luna qualcosa. Ducoli, vero? Sì, ha collaborato nell'album Quarto de Luna e poi adesso scusate cari ascoltatori per la mia pronuncia è assolutamente incoerente, come si dice giusto? Quart de Luna, ecco, vedi che luna. Bella pronuncia, è la luna, prova, che prova, è la luna. Prova a dire luna. Lina, no, assolutamente non è semplice, no, è difficile. Beh, ha collaborato con voi in questo album, sì, praticamente. Sì, sì. E qui è nata una. Vabbè, dicevo prima, c'è Ducoli, Ettore Giuradei, che è un nostro amico. Sì, siamo venuti qua sia Ducoli sia Giuradei, bravissimi musicisti bresciani. E con Ducoli è nata questa collaborazione, questa intimità da anni che ci conosciamo. Però abbiamo maturato insomma questa collaborazione con il CD Quarto de Luna. E la collaborazione è andata avanti. A proposito di questo, io so. Cioè, non vabbè, parlo... Poi altri live, abbiamo una data a Salò, in riva al lago. Bellissima anche come ambientazione. Sì. Poi abbiamo a Vil Minore di Scalve, verso la Bergamasca. Mm-hmm. E poi siamo in attesa che qualcuno ci... Perché abbiamo fatto un sacco di promozioni in comuni e non con comunità montane, però... Non hanno i soldi. Mancano i soldi. Sì, adesso è un periodo un po' nero. Non hanno i soldi. E sempre per concludere... Quindi rimarremo con i nostri CD in mano! Per concludere il promo, se qualcuno volesse acquistare il vostro CD... Come può fare se non è al concerto? Ma io penso che ci contatta tramite il sito internet, oppure che vogliamo dirlo, il sito internet è www.selvaggiband.com, oppure abbiamo la pagina su Facebook, dove bene o male c'è sempre qualcuno attivo, e se qualcuno volesse i nostri dischi ci può contattare lì e glieli facciamo avere. Benissimo. Tramite posta. Dimmi. Mi dimenticavo una data importante, il 26 maggio. Dove sei? Dove siete? È vero, è un paese, un paese lì vicino a noi, a Casto. È una frazione di Casto che fanno gare podistiche, sono quei memorial. Sì. E alla fine c'è un concerto, siete alla voi. Fine c'è concerto, festa per tutti. Sì, lì siamo abbastanza... Sì, Giovanni ha fatto un gesto, sì. Festa. Su festa. Abbastanza, sì. Bene, sentiamo un altro pezzo del CD. Che cosa, Gillo? Qua mi metti in difficoltà. Prima te con la Luna, adesso Coppel, è giusto? No, Coppel. Ecco. Io ci ho provato, ho detto ci provo. Quindi... Vi faremo un breve. Una lezione di dialetto bresciano. La prossima volta saremo più preparati, esatto. Maurizio. Prima facciamo un po' di lezione di bresciano e poi facciamo il programma. Ok. Bene. Ci vuole. Anche la traduzione ci vuole in qualche momento. Sì. Sì. Sentiamo il pezzo allora, ok? Coppa al Franken e Coppa al Manken, Coppa al Gat e Coppa al Mat, Coppa all'Orgen e poi alla Merla, Coppa al Veggio con la Serla, Coppa al Giot e la Marot, Coppa al Bec e Coppa i Tuc, Coppa al Franco e poi la Franca, Coppa al Mut, te lo dit. Tira te che tira me, traga drit e traga tort, pim pum pam che tira me, pim pum pam tiro me tu. El hotuni, coppa il treno e la farfisa, coppa il vento e coppa il hi, coppa il pic e il cua longa, coppa il hat e il ciapalonda, coppa il lat e poi il fiorit, coppa il caret e poi il hambuc, tira te che tira me, traga long che traga cur, bim bum bam che tira lui, bim bum bam tiro me. Che la borella, burla, netta e la padella, fai a fare un primo salto, fai un salto, fanno un altro, viva se con la secoloro, brutto diavolo cattivo, per ogni popola popoloro, tiro gli ancora se resta vivo. E poi la sura, coppa al veren e coppa in du, coppa al mort e coppa al durt, coppa al cioc e l'ingerù, tira te che tira me, traga hura e traga hota, bim bum bang e tira lui, bim bum bang tiro mentù. Faga fa che la borella, burla detta la padella, faga fa l'ultimo salto, fai un salto, fanno un altro, viva secula seculorum, brutto diavolo cattivo. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Sono le 23.42 qui a Blu Radio Veneto, ancora circa 20 minuti. Sì, insomma, anche di più, adesso vediamo. Insomma. Assieme ai ragazzi, Selvaggi Band, e sto dando un'occhiatina. Stai ridendo. Sto dando un'occhiatina alla vostra pagina Facebook e qui c'è una voglia di... di cambiamento. Una voglia di cambiamento, come mai questa voglia di cambiamento? Il batterista, che vi ha fatto il batterista, ragazzi? Ma no, era solo per un fattore estetico, diciamo. Cioè, vi dico, c'è una bellissima batteria, se entrate nella loro pagina Facebook la vedrete, una bellissima batteria e una bellissima ragazza, ma non è il batterista di cui parlavate. No, non è... Purtroppo no. Magari avesse una batterista così. Bisognerà chiedere al batterista se è contento. Il gruppo sicuramente sì. È vero. Benissimo, allora abbiamo sentito questo pezzo, Giovanni, sì. Pezzo molto blues alla fine, sì. c'era il blues che serpeggiava come tutti i pezzi, il blues serpeggia sempre, bene o male, nascosto o non nascosto, molte canzoni arrivano dal blues, tu hai citato Buddy Guthrie, ho citato Pete Seeger, chiaramente partono tutte da là, il folk è il blues, sì. cioè la matrice e la radice è sempre quella. E questo, lo strumento è suonato a te, mi pare, in questo. Questo fraseggio, esatto. L'inciso, sì, è dobro. Ecco, come nasce una canzone da parte della Selvaggi Band? Tu dicevi, a me non il discorso del 90% la metrica, non mi interessa in questo momento, mi interessa l'idea, come vi trovate assieme e fate un pezzo. Questo mi interessa. Beh, allora, partiamo... Da un inciso. Da un'idea musicale ispirata ovviamente a un fatto di cronaca, una leggenda, leggenda anche delle vostre parti, come no? Ma anche musicalmente da un... Lui ha citato la musica classica, Danilo. Cioè, tipo, non so, un riff Doriano. Di... Danilo, perché non so, ovviamente sempre Danilo, Doriano, sempre con la D, ma non è proprio lui, Doriano. Non so, per dire anche da un riff irlandese o, sì. da qualcosa si sviluppa poi la melodia con un'idea del testo che poi sviluppiamo insieme. Ma sviluppate tutti in studio queste robe? Le fatte? No, facciamo casa di Giovanni. Casa di Giovanni. L'artefice principale è lui, cioè nel senso lui, proprio la base delle canzoni è lui che lui dà fa il timido. Esatto, lui fa il timido adesso, cioè fa il modesto, no? Sì. No, Giovanni è vero. È un po' imbarazzante la cosa. No. Quindi Giovanni dà l'input su queste cose. Esatto. Sì, diciamo che musicalmente anche tra di noi è quello più preparato. Sì, esatto. No, beh, preparato. Preparato è il maestro. Maestro Doriano. Sì, ma lui c'ha troppe influenze. Influenze strane. Influenze strane. Beh, lui ha citato il jazz. Ma anche, francamente, adesso stiamo scherzando, però il jazz nei meandri della vostra musica esiste, c'è sempre, viene fuori. Sì, bene o male, qualcosina. Qualcosina. Però io, parlando di jazz. Jazz molto, molto movimentato, non quelli jazz di un certo tipo, abbastanza freddo. Questo il vostro non è jazz, freddo, assolutamente. Cosa dici, Doriano? Il Dixieland. Dimmi, Dixieland, assolutamente. Dixie, primo jazz. Un po' più vicino al microfono. Sì. Quando improvvisiamo ci troviamo in stanza siamo... giochiamo ma in senso positivo del termine, quando non sappiamo cosa facciamo per quello quando non sappiamo cosa facciamo, questo è jazz. Facciamo jazz, quindi vabbè. Va bene, adesso avete vorrei precisare il discorso, la collaborazione con Alessandro Ducoli, sì, che è importante, perché ecco, per noi è un riferimento importante, la stesura del testo la consultiamo, cioè ci consultiamo con lui. E lui è molto bravo anche a arrangiare, a produrre, sì, eccetera. Sì. Dal punto di vista lirico, secondo me, penso secondo anche tutta la band Selvaggia, è uno degli artisti che ha più dimestichezza con la parte lirica. Sì, esatto, questo è vero. Nel bresciano è un... possiamo dire che è un rocker di quelli tosti. Sì. Esattamente, e quindi anche dal punto di vista lirico non ha molto da dire. Adesso fate dal vivo quel pezzo che a me, ad Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, è piaciuto molto. Sì. È la cosiddetta title track, si dice così, no? Il titolo del disco. Sì. E adesso la pronuncia non la dico perché Paganini non ripete. Dai, assolutamente. Ritenta. No, assolutamente. No, non vorrei. Se sbagli, non vorrei rompere l'armonia di questo pezzo meraviglioso. Adesso lo suonate e poi ne parliamo ancora. Sì. Che la luna le buna, nel cuor che fa buna la legna, l'incalla trova la candela, la sella cambia la storia in quarta pena. Il bosco ha perduto la foglia, i dischel è pronta la legna, la storia la dischetta e anche la buna, il di la gandre che è la magra. Sono i segni che ha sulla fronte e sulle mani, sono quelli che ho sulle braccia e sulla schiena, sono quelli che ho preso dal monte per cambiare la fortuna, sono quelli di tutti gli inverni e della luna. Che non serve cambiare, che la storia la può continuare. Attacca la squadra che arriva l'inverno, prepara la sporta che arriva la luna a dicembre. Il bosco ha perduto la foglia e l'arsia paga la sua colpa. La gente dimentica presto che tutte le storie le ha ricordate. Che ho sulla fronte e sulle mani, sono quelli che ho sulle braccia e sulla schiena, sono quelli che ho preso dal monte per cambiare la fortuna, sono quelli di tutti gli inverni e della luna. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Pezzo molto bello. Non per niente io ed Alberto abbiamo deciso quello è il pezzo lancio del disco. A me è piaciuta una bella ballad. Ballad proprio irlandese, proprio musica folk, questa è proprio musica folk, non prettamente bresciana o popolare o italiana, è più inglese, più irlandese, cioè questo, secondo me la trasporto in quella situazione. Ecco, proprio in questo pezzo... Ripartiamo il titolo. Quart de Luna. Perfetto, bravissimo, l'hai pronunciato benissimo. Sembra che e proprio in questo pezzo c'è la voce di Alessandro, di Alessandro Ducoli, che anche lui è molto, ama molto fare queste cose, sì, esatto. Queste ballad. Lui è un rockettaro, sì, però sì. Quando fa le ballad si trasforma, secondo me. Esatto, infatti c'è la sua voce talmente profonda che non può non piacere. Esattamente, è una voce molto bella. Decisamente. Dimmi. Cosa possiamo dire riguardo a Quart de Luna? Quart de Luna, diciamo che racconta la storia. Il titolo è, si potrebbe anche capire quarto, il quarto di luna. Il quarto di luna, esatto. Il quarto di luna è associato a Associato al taglio della legna. Che si guarda, dicono almeno da noi, la legna si taglia per far sì che mettendola nel camino bruci, bisogna tagliarla in luna buona. Sì, esattamente. E c'è quel famoso quarto di luna che poi c'è chi dice che sia il primo, chi dice... Io non ho ancora capito, io sinceramente non taglio la legna, però... E questo pezzo racconta proprio delle fatiche, soprattutto dalle nostre parti, abitando in montagna. I boscaioli. Il taglio del bosco è fatica vera. Però è fatica collegata alla natura. Tempo fa era proprio sostentamento. Esatto, della era gente. Un sostentamento. Si sono persi, fortunatamente sì. Si sono persi, nel senso che probabilmente i boscaioli hanno altro con cui sostenersi. Però si è perso anche la tradizione, sì. La vicinanza con la natura. Sì, questa, infatti, se si girano i boschi adesso, non sono più come i boschi di una volta. Esattamente. Quando si andava nel bosco o perché serviva per il riscaldamento, le foglie servivano per le stalle. Non si buttava via niente del bosco. Non si buttava niente. E poi era pulito. E poi era pulito. Poi era pulito. Adesso non è più niente. Ma mi sa che se andiamo avanti così, ragazzi. C'è la globalizzazione. E qui ritorniamo di nuovo. Se andiamo avanti così. Della globalizzazione. Globalizzazione, ma anche dalle origini. Dalle origini. Mi sa che anche le montagne si ripopolano. Esatto. No, perché è stato detto anche che l'album Quarto Luna è un po' sconnesso da una canzone all'altra, ma... Però se vogliamo riusciamo anche a trovare i collegamenti perché Quarto Luna richiama benissimo, secondo me, la tematica di Rino il contadino. Ah, ok. Cioè, sì. È una... cioè la natura non deve essere lontana, la natura e la persona deve essere un assieme unico, praticamente. Esatto, sì, questo sì. È l'idea, il progetto, il messaggio, possiamo dire, esatto. che viene mandato. Che volendo poi dire, cioè, si collega anche all'altro pezzo che vorrei mandare poi quello dal disco. Adesso che lo sentiamo allora. Che sì. Ciao Bottega. Ciao Bottega, praticamente la bottega, la vecchia bottega dove si aveva il contatto, il cliente con il bottegaio, si andava adesso lì. Adesso non esiste più, ci sono i supermercati, esatto, o gli ipermercati. Adesso ci sono i centri commerciali. Un po' alla volta ritornano. Esatto, e questo sempre... Pago a fine mese. Sì. Il collegamento, io mi ricordo da bambino soprattutto... Comunque non c'è esperienza più bella che la domenica pomeriggio... passarla al centro commerciale. Sì, fantastico. Stavo dicendo che io mi ricordo da bambino, mia mamma mi mandava, c'era una bottega del paese, una cooperativa del certo. paese, dove si... cioè, si un po' di tutto. Tutta la gente del paese, la spesa... La faceva lì. A meno la spesa quella grossa che si andava, sì. andava al supermercato, quelli di una volta, che erano i discounter sì, di adesso. Di adesso, sì. La spesa quotidiana si faceva in questa bottega. Esatto. E quando io ero bambino, mia mamma non mi dava i soldi per andare a fare la spesa. C'era il coso di... Si segnava. C'era l'usanza di segnare. A Brescia si dice far notare. Ecco, esattamente. E la mamma poi si trovava con i conti. Sentite ragazzi, prima della prossima canzone volevo chiedervi una cosa veloce. Dicembre 2012 voi avete fatto un concerto per i detenuti di Canton Mombello. Sì. Anche a luglio. Abbiamo fatto a luglio dello scorso anno e poi siamo ritornati a dicembre, sì. Esatto. Che esperienza è stata? È stata una fantastica esperienza. La pelle d'oca. Veramente. Suonare per loro ci ha trasmesso un entusiasmo particolare che forse non si può neanche descrivere adesso così. Esatto, descrivere. Lo provi al momento. Comunque loro hanno una carica. Una voglia di vita. Che... Per capire bisogna proprio essere lì, altrimenti è difficile da spiegare. Perché è veramente una cosa incredibile. E soprattutto... è stata un'iniziativa vostra questa o è partita da dove? Come allora, è partita da noi. Perché noi abbiamo degli amici, musicisti, amici, che avevano già fatto l'esperienza in carcere, suonare in carcere. E io quando ho visto questa cosa qui mi è subito balzata all'occhio e ho detto... fatemi capire come si può vogliamo fare anche noi questa esperienza e l'abbiamo fatta, ci è voluto un po' di tempo per capire come ci hanno presentato questa questa persona che organizza tornei di calcio, tornei all'interno del carcere. All'interno del carcere, e ci ha fatto conoscere questa persona e ci ha fatto entrare. Da dire c'è che bensì, io penso che il 65-70% dei detenuti sono tutti extracomunitari. Sì. Mm-hmm. Ma forse è per il fatto anche che, come noi, la musica inglese non capiamo niente. Loro probabilmente non è che, non penso che ci capivano, ci capivano qualcosa. Però le sensazioni, quelle di rimando che hai dal pubblico, da un pubblico così, c'hanno veramente da pelle d'oca, e sono è difficile descrivere quelle sensazioni. Comunque a me personalmente ha fatto molto piacere questa cosa, è stata una cosa molto appagante, e sicuramente ci è piaciuto la prima volta, l'abbiamo ripetuto e abbiamo dato la nostra disponibilità per la prossima volta, per eventualmente poi sperimentare come la musica veramente va al di fuori dei confini, certo, cioè, entra immediatamente dentro le mura, Ascoltiamo la prossima canzone. Sì, esatto. E allora ci ascoltiamo Ciao Bottiga, l'ho detto bene, vero? Sì, ragazzi, perfetto, promosso. Ok. Al centro commerciale, macchere de carneal, che cincel, che beleja, che più tanta de chiameja. Compra te che compra me, ma palanche no che ne, una volta i fa nota, in da bottiga hota ma. Botteghier porta pa hensha, con duma e la coscienza, le butiche e buchi nel col tirar, come galine. Nome al centro commercial, le gatte basta pagar, ma è palanche c'ha un'ota, bocca mia è più larga. Botteghier col begaro, me quartiro, forma gele e sta chi, mai de piede in tu chi lì. Al centro commercial, lega tu basta pagal, a bela de hen ha freja, paja pa hen da pieneja. Por hitine pa kiti, culen pie final cupi, le butiche son de ela, che ne più, tec che era. Non facciamo mai, ma per motivi di tempo. Sì. Siamo stati autorizzati a tagliare il pezzo. Adesso ci presenti, Giovanni, 10 secondi, sì, il pezzo dopo, e poi facciamo la gran finale. Volevamo mettere in onda anche il prossimo pezzo, dal titolo Il Gabbiano, e parla di un personaggio caro, a noi molto caro, è un, possiamo dire, sì, un, certo, un missionario in Bolivia, morto nel aiutatemi, 84-85, mentre stava portando dei doni la sera di Natale. La sera di Natale stava portando dei doni ad un villaggio di bambini disperso in Colombia, nella Bolivia. Nella Bolivia, scusa, nella Colombia. Due parole veloci. È morto vicino dove hanno assassinato Che Guevara, dove è stato molto vicino. E le due vite si possono anche un po' associare. uno che ha lottato per i poveri e l'altro per... Una parola veloce per il titolo, che lui era, siccome lui non usava mezzi a motore, ma usava solo la bicicletta, e giù era conosciuto come il Gabbiano in bicicletta. Ah, ho capito. E noi gli abbiamo dato il titolo a questa canzone, Il Gabbiano. Benissimo, la sentiamo allora. Le case, la scuola, scivola ancora e mette quasi paura. Vola il gabbiano, vola via da occidente, libero è l'orizzonte, ora io non ho più paura. Polvere e fango, passa da Montenero, passa via da Rio Grande, voce della foresta, voce della tempesta, cantami una canzone ancora, c'è una luce di festa. Della terra, figlio e maestro è condannato la guerra, l'hai guardata passare sulle onde del fiume come il grande guerriero, amore come grande la luna. Della mattina sarà dolce la stella, nella notte dell'inverno dentro questo orizzonte vola come il gabbiano, ancora vola verso occidente. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo finito, cari ragazzi. Abbiamo finito Selvaggi Band. Che bello, Selvaggi Band. Selvaggiamente parlando e selvaggiamente suonando, nel senso positivo del termine. Ha fatto due ore di musica a ruota libera, si può dire così? Sì, sì. Sì. E ci siamo divertiti tutti, prima sì, sì, noi e sicuramente anche gli ascoltatori. Molto. Cosa dici? Certamente sì, è stata veramente una ventata d'allegria, perché ascoltare queste sonorità non può soltanto che mettere un po' di felicità. Allegria è bella musica. È bella musica, sicuramente. Maurizio, mi si chiama Maurizio, sì. Bella musica. Roberto, Giovanni, Doriano e Stefano. Fanno i Selvaggi Band. Fanno i Selvaggi Band. Stasera, adesso, stasera, ore 20. 24 e 9, con cosa ci salutate? Salutiamo con vai. Diciamo Bus, quella che abbiamo ascoltato dal all'inizio. Disco, però l'altra versione, quella più acustica. Quella più acustica. Gil. Maurizio. Ti posso solo ringraziare. Io ringrazio te. Domani riposo, perché è festa San Marco, quindi domani grande festa a Venezia. Domani riposo. Oggi praticamente. Gran giro in moto, un po' di divertimento, un po' di relax e finalmente qualche bella giornata. Con te ci vediamo il primo maggio, Che il dove primo maggio. Suoniamo, primo maggio lavorativo per la radio. Bello, telefonica bello. E live. Esattamente. Posso? Dimmi, vai Selvaggio. Volevo ringraziare Maurizio, Gil, per l'accoglienza che ci hanno dato. Ringraziamo Alberto Prisco, nostro direttore artistico. E grazie a tutti e spero di rivederci. Sì, vi aspettiamo al prossimo album. Allora. Okay. Natale 2013 dovrebbe uscire secondo voi? Esatto. Può darsi che esca. È un impegno. Quindi nei primi giorni, prime settimane del 14 del 2014 sarete qua a presentarlo. E mi raccomando, portate il nuovo batterista. Esatto. Buonanotte a tutti. Se qualcuno da queste parti si vuole, cioè, esatto, se volete fare un appello, che qualcuno vuole sentire la vostra musica, sarebbe bello riuscire a andare fuori citate provincia. Un'altra volta il vostro sito. Esattamente, i contatti è www.selvaggiband.com oppure sulla pagina di Facebook c'è Selvaggi Band come pagina, come gruppo. Ok, buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. Ciao. Grazie a tutti, buonanotte. Fermo la fermata, aspetto l'ultima corriera. Grido a tutti state fermi, sono primo, vado avanti. Sono qui da quasi un'ora, non vorrei fregarmi il posto sul piumino. Tu non ci crederai, è una guerra lo sai. Per andare a scuola mi svegliavo alle 6. Ciapa il GB, l'abbonamento è ferateca. Mario Crappadura era l'autista più veloce. C'era Sergio Muso triste che saltava le fermate. C'era quello mezzo matto che scaldava la corriera di risate. Tu non ci crederai, subito per noi. Questa è una canzone scritta solo per voi. Prima, seconda salita, la marcia che gratta è partita. Ormai viaggio di sera. Se non trovi il posto restante, una signora. Se non trova il posto che non è. Chi non si ricorda quell'autista leggendario che scaldava il suo motore accelerando per due ore. C'era il mezzo che gridava maledetto che stomata non fa muore. Tu non ci crederai, siamo cresciuti con lui e adesso che non c'è lo rivorremmo con noi. L'ombrello, i guanti, lo zaino, quattro robe gode smentegate. Vai Stefano! storie di corriere, storie vere di paese, storie ferme di passaggio e di persone in viaggio, storie con un menestrello che si chiama Bus 1824. Se ci credi lo sai, sono le apposta per noi, se voglio un po' il motore non te ne pentirai. Tu sali, ti siedi e rivedi passare le ore di ieri, ma come eri? Viaggio di sera, se non trovi il posto resta un pe. Una signora, se non trova il posto che non è. Sera, se non trovi il posto resta un pe. Una signora, se non trova il posto. Daremo il nostro.